Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Ascolteremo l'intera sura Azzelzal, il terremoto, dalla voce del fratello Mansuri. Seguirà la traduzione in lingua italiana. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها il misericordioso. Quando la terra sarà scossa dal terremoto, la terra rigetterà i suoi fardelli e dirà all'uomo: cosa le succede? In quel giorno la terra racconterà le tue storie, giacché il tuo Signore gliele avrà ispirate. In quel giorno gli uomini usciranno in gruppi affinché siano mostrate loro le loro azioni. Chi avrà fatto del bene, anche quanto a un briciolo, lo vedrà. E chi avrà fatto del male, anche quanto a un briciolo, lo vedrà. Gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi in lingua italiana dell'IREB vengono trasmessi tutti i giorni dalle 6.30 alle 7.30 ora di Greenwich e sono ricevibili in onde corte sulle seguenti frequenze: 17.660 kHz pari a 16 metri, 15.480 kHz pari a 19 metri. Il programma serale va in onda dalle 19.30 alle 20 ora di Greenwich e sono ricevibili sempre in onde corte sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz pari a 41 metri e 9.755 kHz pari a 31 mesi. Questo programma viene trasmesso per l'Italia e l'Europa centro-occidentale. Salve cari ascoltatori, vi parlo al segno della voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette da Teheran. La programmazione di stasera lunedì 6 maggio 2013 prevede in apertura il notiziario accompagnato da una breve nota. Nella parte conclusiva vi presenteremo un'altra puntata della serie Alla scoperta dell'Iran. Ora diamo spazio alle notizie, restate in ascolto. Incomincerei come di consueto con i principali titoli: guida suprema, nemici alimentano inimicizia tra musulmani. Siria, preoccupazione Mosca per l'intervento militare esterno. Italia, è morto a 94 anni Giulio Andreotti. I nemici stanno cercando di soffiare sul fuoco delle ostilità tra sciiti e sunniti, l'ha detto la guida suprema dell'Iran durante un raduno con i responsabili per le elezioni presidenziali, poi riferendosi alla profanazione dei luoghi sacri islamici ad opera dei gruppi estremisti in Siria, invitando ancora una volta i musulmani a rimanere uniti. Il leader iraniano ha apprezzato l'atteggiamento della comunità sciita siriana di dimostrare tolleranza nei confronti di questo atto vile e odioso e di non farsi trascinare nella trappola creata dai nemici. مسلما امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حداکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور خواهد توانست یک گام دیگر به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی پیش برود. Parole di elogio anche per i fratelli sunniti, spese sempre da parte dell'Ayatollah Khamenei. I nostri fratelli hanno subito condannato la demolizione del sacro mausoleo di Hoxha ibn Abdi, compagno del profeta Muhammad, la pace sia con lui, per mano delle milizie wahhabite che agiscono al soldo delle potenze arroganti del regime sionista. I militanti del fronte al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, hanno rivendicato l'attacco alla tomba di Hujair nella città Adra, nella periferia di Damasco. Cambiamo argomento. La Russia è seriamente preoccupata per i segnali di preparazione di un'opinione pubblica internazionale per un intervento armato esterno nella crisi siriana. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri russo. Mosca ha condannato l'aggressione israeliana alla Siria, come ha fatto anche la Cina. Il Cremlino ha reso noto che il presidente Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il capo del regime di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, sulla situazione siriana. Italia. Giulio Andreotti si è spento oggi nella sua abitazione romana alle 12:25, aveva 94 anni. essendo nato il 14 gennaio del 1919 per Giulio Andreotti, niente camera ardente al Senato, ma nella sua amatissima, amatissima casa, studio di Corso Vittorio e funerali privati presso la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a Roma. Lo hanno reso noto suoi più stretti parenti. Le esequie sono previste per domani pomeriggio. Iraq, due autobombe ed un ordigno esploso a posto di un ristorante hanno provocato almeno 11 morti ed una trentina di feriti a Baghdad. Pakistan, è di 15 morti e circa 70 feriti il bilancio dell'attentato realizzato oggi nella zona tribale di Kurram nel nord-ovest durante un raduno politico del partito di Jamaat Ulama Islam in vista delle elezioni politiche dell'11 maggio. Alla manifestazione partecipavano in una madrasa scuola circa 3.000 persone. Egitto. Sono stati arrestati oggi al Cairo 5 uomini sospettati di aver sparato contro il corteo del primo ministro Hesham Kandil. L'attacco è avvenuto domenica sera quando il politico passava in macchina su uno dei ponti della città. A questo punto le sue guardie del corpo avevano notato un furgone sospetto con dei portelli aperti apparso improvvisamente nelle vicinanze. Le guardie avevano sparato un colpo di avvertimento in aria, ma dal furgone in risposta è stato aperto il fuoco. In seguito, quando gli uomini sono stati arrestati, hanno sostenuto di non sapere che nella macchina ci fosse il primo ministro del paese. USA. Nuovo dramma negli Stati Uniti provocato dal possesso di armi in casa, è l'ennesima tragedia che ha colpito una cittadina vicino a Fort Lauderdale in Florida. I due fratelli, un maschio 13 anni e una femmina 6 anni, erano soli al momento della tragedia, stavano giocando a nascondino quando il fratello più grande ha impugnato una pistola presente in casa e inconsapevolmente ha sparato un colpo contro la sorellina, che è ricoverata in gravi condizioni. Gentili ascoltatori, era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento. Le armi chimiche sono state utilizzate dai ribelli e non dall'esercito. Il gas sarin sarebbe stato lanciato dai ribelli e non dall'esercito siriano. Parola di Carla Del Ponte, ex procuratore del Tribunale Penale Internazionale e membro della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani in Siria. Non prove certe, solo il presunto di testimonianze, quelle pronunciate dall'ex magistrato svizzero ad una radio elvetica nella notte tra domenica e lunedì. Ma la conclusione delle indagini è ben lunga da giungere al termine. Le indagini dovranno essere ulteriormente approfondite, verificate e accertate attraverso nuove testimonianze. Ma per quanto abbiamo potuto stabilire al momento, sono solo gli oppositori ad aver usato il gas sarin, ha concluso l'esperta delle direttive dell'ex Jugoslavia. Quella dell'utilizzo delle armi chimiche rappresenta un nodo cruciale per le sorti del conflitto siriano. Barack Obama ha più volte sancito un limite da non oltrepassare, quello dell'utilizzo di armi chimiche, una linea rossa che se oltrepassasse sarebbe equivale come detonatore degli interventi dell'ONU nella regione. Ma nei giorni scorsi, a scapito di dover ripetere quanto è successo in Afghanistan, il Presidente degli Stati Uniti aveva predicato alla prudenza e alla necessità di un intervento solo dietro prove inconfutabili di utilizzo di armi a base di gas sarin e di altre sostanze pesticide. Una soluzione interventista fortemente invocata dal Ministro degli Esteri francese Laurent Fabius, ma voluta anche dalla Gran Bretagna, una situazione che secondo gli esperti ricorda molto quanto avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, quando la Gran Bretagna, per convincere gli americani ad intervenire contro i tedeschi, enfatizzarono oltre misura l'utilizzo di armi chimiche. Era il 1915. Ma secondo John Muller della rivista Foreign Affairs, il copione è lo stesso, come se poi quanto avverse nei primi del 750 giorni di conflitto necessitasse di prove di armi chimiche, perché i proiettili di piombo sono uccisioni di serie D. Tutte le immagini, i video cruenti, i video delle sevizie sono più tollerabili, Cassarino no. La posizione potrebbe essere rivista dalla luce dei nuovi eventi che stanno scuotendo tutta la regione Medio Oriente. Iran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Alla scoperta dell'Iran. Cari amici, benvenuti, anche oggi siamo in vostra compagnia per portarvi a fare un viaggio nella nostra nazione. Nella settimana scorsa abbiamo iniziato la nostra visita nella regione settentrionale iraniana del Mazandaran. Oggi vi portiamo con noi nella splendida città di Sari, sulla riva del Mar Caspio. A tra poco. Di Sari, insieme alle zone di cui è capoluogo, è una delle zone più importanti della regione del Mazandaran ed una delle più belle di tutto il nord Iran. A nord è delimitata dalle acque del Mar Caspio, ad oriente dalla cittadina di Beshah, a sud dai monti Albor e ad occidente da Ghaemshah e Savotkuh. Questa regione è ampia circa 4 km quadrati ed è irrottata da diversi fiumi, tra cui il Tajan, lungo circa 140 km, che si riserva infine nel Mar Caspio. Il Neca è un altro fiume importante di questa zona. La zona è anche piena di fabbriche. Tra le industrie principali di questa regione possiamo citare quelle alimentari, quelle dei cereali, quelle del cacio, del metallo, quelle tessili, quelle del legno, del cuoio e quelle chimiche. L'agricoltura e l'allevamento è la base dell'economia della zona e soprattutto l'agricoltura è molto vantaggiosa per via del terreno molto fertile e l'acqua abbondante. Grano, orzo, riso, cotone, tabacco, mais, verdure, agrumi e semi oleosi sono i principali prodotti di questa zona. Il mare naturalmente permette la pesca e anche questa è una delle attività molto importanti nella regione. Città antiche dell'Iran. Venne fondata nell'VIII secolo d.C. dal governatore del Tabaristan, l'odierno Mazandaran, il comandante Arakan. Lui aveva un figlio che si chiamava Saruye e di suo onore nacque quindi la città di Sari. La città ha avuto un ruolo da protagonista praticamente in tutto il periodo storico seguente alla sua nascita. Il califfo Abbaside Mansur ricostruì una moschea dopo averla conquistata. Nel IX secolo il condottiero persiano Yaqubi Safari la liberò dal dominio arabo e la consegnò al sultano Samani di Ismail. Fu dominata per un breve periodo anche da Ziyaridi e dagli Alepuzi. Nel XI secolo Mahmud Ghazali vinse e nel XV secolo Camerlano lo mise a ferro e fuoco. Nel periodo Safavide la dinastia persiana la ricostruì e la diede nuovamente spazio e fiorenza e costruì in essa tanti palazzi santosi e numerosi ponti sul fiume Tajani. Ai tempi del fondatore della dinastia Gajaride, Muhammad Khan venne persino scelto come capitale per un periodo, elemento che aiutò ad un ulteriore abbellimento della città. La città di Sari è una città di primo livello tra quelle iraniane, ciò è dovuto per la sua forza economica, l'aeroporto e le vie di collegamento alla città. È uno dei centri iraniani con maggiori precipitazioni e di essa c'è pioggia in tutte le stagioni. Alle volte le piogge superano persino i 70 cm. Il clima della città è umido e per questo in inverno non si verificano cacciate anche se la temperatura si abbassa e naturalmente ciò rende desolato e bellissima anche la flora. Oltre alle attrazioni naturali come la prateria tette da Shennaz e le foreste intorno alla città, vi sono anche luoghi storici importanti. Possiamo citare la torre di Nonnoggio del centro della città, il mausoleo Mollah Majdeddin dei primi secoli dell'arrivo dell'Islam, la cupola del mausoleo di Yahya e la torre del mausoleo di Zain al-Abidin ed infine la moschea del venerdì della città risalente all'VIII secolo. Nel periodo Safavide rimane in piedi il complesso Khazarabad a 4 km dalla città di cui rimane un palazzo delle terme distrutte ed una moschea.